Non lo so. No, è amplificata la radio, è amplificata. Scusami, l'amplificatore. Alta penevata adesso. Allora, a portante muta siamo 1, modulati siamo quasi 4, 5, 7. Mettiamo così, va bene? Troppo, abbassa, abbassa. Abbassato, guarda un po', e siamo a 500. Abbassa. Ancora, tanto non mi piace così. Lasciala così, allora, se ti piace più, ti ascolto male. No, aspetta, attimino. Stai strappando. Ok, ho abbassato ancora. Allora la usi. Che strano. Vabbè. Vediamo di accordare. Di più non va, di più non va. Ma è buona. Mettiamo la bassa, aspetta. Così è bassa, così è bassa. Prova a attenuarmi così, vedi, quanto riesci, vedi un po'. Provo a attenuarmi e poi provo la posizione più forte. Fatto? Attenuato, 6 a 3. E così è l'altra posizione, guarda un po' se è cambiato. Fai da 3 a 9. Allora già va bene. Va bene sì. Va bene sì. Però il coso tuo è tieni i microfoni troppo lontano. No, vabbè, è giusto perché adesso sono incasinato, adesso sono staccato, Ora ho circa 7 watt. Tu hai il coso che non vedi, l'amplificatore spingere, però sì, lui è così, purtroppo no, devi 7 watt, 7 watt, modulati quanto spinge? No, ma adesso l'ho spento, però adesso sto lavorando intorno ai 500. Però quando lavora intorno ai 950. Adesso è spento, hai detto? Sì, adesso è spento. Ok. Ma tu ti ricordi come entrare nel menu dell'amplificazione, del livello microfonico? Sì. Allora, entra un attimo. Allora, guarda, noi avevamo già fatto una cosa, che in AM dovrebbe essere... ce l'ho già, ce l'ho anche scritto EC, vediamo un attimino, allora aspetta, il mic EC deve essere a 20, EC9 deve essere a 20 con watt di pilotaggio 15 watt, mentre invece in FM EC deve essere a 30 con il watt di pilotaggio a 5-7 watt in FM. Guarda quanto sei. Adesso siamo a 5 watt di pilotaggio, dovrei essere 15 watt. In FM devi essere, devi, in AM a quanto? In AM 15 watt, in FM 5-7 massimo. Il livello microfonico quanto ce l'hai adesso? Deve essere a 9, a quanto ce l'hai tu adesso? No, deve essere a 20, IC9 si chiama, IC9, deve essere a 20 e credo che sia, questo sia a 30, ecco perché non sto andando, aspetta. E infatti, IC9 è a 30. Portalo a 20. Aspetta, eccolo qua, adesso è a 20, vedi? Adesso è più basso, quindi se io aumento di watt, infatti, vedi? Ora, cambia qualcosa? Questo è tutto compresso. Aspetta. Adesso cambia qualcosa? L'amplificazione me l'hai fatta abbassare? Alzala un po'. Guarda, era qua l'amplificazione, e questo era così. Guarda un po' se è cambiato qualcosa. 1, 2, 3, prova di modulazione. Abbassa appena l'amplificazione. Abbassata, questa è a 7 ora, A posto, molla lo usi. Mentre invece se andiamo in FM, allora dobbiamo andare con 5/7 watt e l'IC9 deve essere a 30 anziché a 20. Adesso a 20, Vedi che tornano i conti? Ma infatti adesso sto lavorando, per quello che sto dicendo. Adesso tornano i conti. Prova in FM a fare quel passaggio lì e vediamo un attimino. Va in FM. Allora, qua in FM sono basso, comunque. Aspetta un attimino, Allora. Vediamo un attimino. Scala 50, vediamo quanto arriva, dai. Scala 50, lui a manetta arriva 35 watt. Lo abbassiamo nuovamente e te lo metto a 10 watt. Ok. Tienilo a 10 watt. Perché vai a rompere il pi greco, Proprio così lo grebbi. Lavora lo stesso, l'amplificatore non è che non lavora la nudica, cioè non lavora la valvola del pre, però stai sempre passando attraverso a lui e lui va a risentire, ne risente il pi greco. Non lo sapevo questo, che potevo danneggiare anche se non era così utilizzato, Adesso per dire sta sta lavorando tra i 3 e 5 watt e 10 watt. Va bene, una volta che manca 10 watt lo puoi mettere, anche a 10 watt non è che cambi chissà cosa, lo puoi mettere anche a 10 watt in FM fisso, però non superare quella soglia, si rompe. In stand by c'è una soglia di trasmissione. Questo non lo sapevo. Mi dovrei scusare, ma questo non lo sapevo. Vabbè, mettiamo 10 watt, va. Vediamo un attimino, nella radio per dire mi segna che ho 3 watt, ecco perché molte volte io sto guardando lo strumento esterno e mi sta segnando 10 watt perché ho la scala 50 e mi segna 10 watt, mentre invece nello strumento del baracchino mi segna 3 watt. Non ti devi scusare con me, ti devi scusare con l'amplificatore, perché è lui che ti sta tirando le maledizioni. Ma lui lo sa che se si rompe peggio per lui. Sì. È lui quello che sta soffrendo. Ui, okay. Gesù. Purtroppo è così. E se no anche per le HF vale, capito? Sono gli amplificatori che, per esempio, il 550 sopporta 5 watt. 5 watt in FM, 5 watt in AM e 10 watt in SSB, anche da spento. Mentre quello mio, il 503, 35 watt può tirare da spento. 35 watt di resistenza, cioè che non lo devi mai far, ma se lo tieni a 20 va bene. Quello essendo valvolare, magari qualcosina di più di lasco te lo dà 10-12 watt, ma tienilo a 10 watt, intanto non cambia nulla. E dovrebbe avere anche 10 watt in SSB quello lì, in banda laterale, però in AM sono 5 watt. Sì, ma la mia domanda è questa: ok, siamo 10 watt in FM, se io passo in AM i watt sono molto meno. Esatto, e quello è, loro ti dimezzano i watt. Adesso se tu passi in AM dovresti avere intorno ai 5 watt, prova. No, ho sempre 10 watt. Hai sempre 10 watt? Sì, ho 10 watt. E la radio già lo sa, anche la radio lo sa adesso, perché ne sta segnando 10 watt. Modulati vai intorno ai 12 e qualcosa. Vediamo quanto sale, dimmi se distorce, eh? Quanto sale in AM. Allora, in AM, non sale, non sale di più, non sale di più, fa massimo 13 watt. Quindi se io lo metto per dire a 0, guarda, ora, ora, fa la 2 a 5 watt anche, che è, mentre invece così 10 watt. Allora esce meglio con 10 watt che con 0, con 0 watt andavi a saturare, con 10 watt esce meglio in stand by. Così 10 watt, guarda. 10 watt, ma se lo lascio così dovrebbe lavorare bene anche, vediamo, in FM. Per dire, in FM abbiamo 8 watt. Io lo metto 10 watt fisso qua, ripasso in AM. 10 watt. Sì, però in FM sale molto di più, Allora, in FM mi sale a 40 watt. E io lo lascio a 10 watt. Ok, sì, sì, sì. Ti sale a 10 watt, andava bene, perfetto, così hai anche, lavora anche bene il pi greco in stand by. No, nel senso che adesso sono 10 watt, però in FM questa radio arriva a quasi 40 watt. Se lo usi senza amplificatore, se lo usi senza amplificatore puoi tirarlo a 40 watt e va bene, loro lo danno per 40 watt e va bene, però una volta che attacchi l'amplificatore tu devi stare a, diciamo, a regime di ingresso di amplificatore, altrimenti spacchi il pi greco e poi ti salgo anche le stazionarie tra la radio, ti succede un guaio. Già c'ho, ne ho un altro. Adesso lo provo in uniforme Sierra Bravo, con questi watt da 10. Ora no, sale sino a 5 watt massimo. Ora, però posso aumentarlo. Ora, ora. Niente, non mi piace. Massimo 10 watt. Buonasera a tutti e due. Beh, Antone, mi sono appena rientrato, ero fuori in giro. Come va? A donne, adesso lo dico a Simona. Ehi, questa donna, a Giovanna, ragazzi, sono sceso alle 8 a fare del lavoro in casa, sono entrato alle 10 e mezzo. Era a trans. Con tram è andato. Ehi, con tram. Maniaco, pervertito. Allora, giallo grido, giallo. Cazzo. Cosa ridere? Ma per carità, ma per carità. No, stavo provando l'amplificatore, Antonio. Ascolta, chiedi a Walter se c'ha uno Smith di LMS200. Di cosa? Cos'è? Lafayette, 200 canali. Ma no, di quella roba lì non ne ha. Non ne ha, avrà la radio intera, però quella roba lì non la tratta, non ne usa. Che se parlo di radio a pizzi, no, radio. Beh, logico, c'è integra, che mica vado a comprarmi la radio integra, ce l'ho già, grazie alle risposte. Mi serve solo lo smitter, mi serve. Non mi serve nient'altro. Solo devo fare la modifica al gallo un pochettino da una parte dall'altra e ci infilo quello che devo dare a te. Quello che devi dare a me e te lo stai mettendo, vabbè, ho capito. Cazzo, secondo te dove lo metto? Lo metto quello delle LMS200 di Antonio, non funziona, quindi tu ti sei fatto vivo, a un certo punto ce lo infilo qua. A meno che non trovo lo Smith il suo originale, se dovrebbe essere quello della Midland che va bene qui, neanche quello della BS200, dovrebbe infilarsi giusto o giusto? Infila, glielo infila, tanto non mi interessa, va bene così. Vabbè, d'accordo, ma non è colpa mia, io non posso fare niente. Me lo sono preso io l'Elixir 200, ecco perché te lo sto dicendo, non è che devo darlo a lui, l'ho comprato io. Problema, non fa tutti di, non vi è problema, non sono con i baracchini che gioco io, no, non c'è problema, vai tranquillo. Cos'è questa Marese 200? È una fagliette 200 canali. La fagliette non mi è mai piaciuto, figurati. Ma perché non li prende a colpi di mazza? Beh, perché non li schiaccio il trattore? Che no, mi è piaciuta, me l'ha giubilato, cosa avevo fatto? Mi sono venduto anche, cioè, sono venduto secondo le 4.000, dico ho detto 120 euro, mi sono pigliato questo. Un Lafayette l'ho regalato a cosa l'ho regalato? A Cristian. Allora non hai pigliato mazzetta, no? No, è perché quando la cosa non la uso, io è inutile che ce l'ho conservata. Anzi, preferisco fare un regalo a un amico che tenerla buttata o conservata dentro un coso, dentro uno scaffale. Tanto è vero che oggi ho tolto un'altra cosa dallo scaffale e ho intenzione di regalare a un amico. Perché non le utilizzo, non per altro. Fai bene, fai bene. Io che sto ieri a coso a un amico di questo lineare che ho io, quello DBW 2001, mi ha detto di cercare i finali, sono a posto, bisogna cambiarli, mi ha detto delle, non mi ricordo che cosa cazzo era, all'ingresso e basta, perché i finali non c'hanno un cazzo. Gli ho detto guarda il lineare, ha detto dava 100 watt, gli ho detto allora dice i finali non c'hanno niente, devi, dice, cambiarli quei pezzi all'ingresso perché è stato modificato e basta, non mi ha detto nient'altro. Mi ha detto Carlo La Parrera, te lo sto dicendo io, quindi figurati, no, lui non si sbaglia su queste cose qua, già lo sai che lui è tecnico. Guarda, uno, cos'è Gavì, questo che abbiamo qua conservato? Il 2001 è? Ma lui sta dicendo con la transistor. Con la transistor infatti c'ho io. Ah, e questo qua invece è a valvole, giusto? Sì, aspetta, sono meglio in Dio, aspetta. Questo è? Il 2002. Regolatore del relè. Antonello sta dicendo il BV non il 2001 ma il BV 2002, quello a transistor che dà 600 watt. Esatto, sì, 2002, non 2002, sono sbagliato io. No, non confondere, Antonello, dai, va bene. Cazzo, ne ho regalato due, già lo sai, a Benito. E tutte e due cazzo le ha bruciate, che cazzo, mi sono girato già le balle con quel cazzo di BV 2001, cioè il BV 2002. Ce l'ho io quello lì, ce l'ho io, l'ha dato a me, me l'ha regalato a me. Basta, sistematelo, non è che ci sia problema, non ho bruciato mica io, quando gli ho dato funzionava benissimo. Quando uno entra con l'antenna che c'è la stazione aria e fa quello che vuole a un certo punto, io quando gli ho dato funzionava benissimo, l'ha provato anche a casa, grazie a Dio, e tu guarda, te lo regalo, però non mi rompere le balle, gli ho detto, provalo qua, l'ha provato qua, dice sì, tutto a posto, la settimana dopo mi fa, dice lo sai il cazzo che non esce più, ah problemi tu, sono, gli ho detto, non sono problemi miei, perché per te hai detto che tu esci con l'antenna in corto, gli ho detto. No, l'antenna è in corto, le antenne sono cortocircuitate. Cazzo, ma il problema è che bisogna stare attenti agli ingressi, e stavamo parlando di quello continuo. Io con l'HF usavo un amplificatore della 27. Però stavo attento agli ingressi e adesso l'ho tolto perché sto con l'HF, mi interessa, dai, c'è una ricezione per in altre cose, però io gli entravo con l'HD503 con l'RM Italy, gli entravo con 25 watt con i 450 e toglieva fuori 280 watt, 220 watt, in quarta marcia. ma lo puoi fare anche con l'amplificatore della 27, però devi stare attento, soprattutto con quella transistor. L'antenna non è antenna in corto, le antenne sono tutte cortocircuitate, bisogna stare attento agli ingressi e all'SVR tra radio e amplificatore. Dice esco distorto, dice, oh Guido, ma vai tra radio amplificatore, c'hai cioè 3 di SVR, lo credo che esci distorto e bruci l'amplificatore, o parte l'amplificatore o parte la radio, vai. Allora ragazzi, io devo mollare. Ascolta Gabi, ma domani ti fai un salto? Domani non lo so se mi viene bene. Non lo so se mi viene bene domani mattina, la verità. Te lo dico magari verso le 9:30. Te lo dico verso le 9:30 perché devono venire a ritirarsi questa roba qua. Dopo che vengono sì. Però non ti so dare un orario vicino, va già un orario vicino. Un orario preciso perché oggi non sono venuti a prendersi questa roba. Vengono domani mattina e dopo la consegno sì. Speriamo che arrivino presto, devo aspettarli qua a casa. Perfetto, dai, fammi uno squillo. Fai uno squillo e poi vediamo come siamo messi. D'accordo, tanto sono a casa io, non devo uscire. Arrivete, mi tagliamo un po' di legna, poi vediamo. Dai. Comunque sono a casa. Devo preparare un po' di roba al cane, devo dargli la medicina, insomma, fare un po' di cosette adesso, quindi mi devo staccare un po' dalla radio. E poi devo fare anche cosa con Nicolas adesso che ha bisogno del mio aiuto. Dai, ci sentiamo una mattina, fammi uno squillo da me. Appena puoi, non c'è problema, sono qua. Ciao Antonello, ogni tanto entra, ogni tanto quando ne hai voglia. Se ti serve qualche cosa di quel 2001, ce l'ho io. Ok, va bene, vai Gabi. E atti dai, ci aggiorniamo domani mattina. Come so qualcosa, ti chiamo e ti dico come sono messo, senza problemi, se arrivo, non ci sono, non ti preoccupare. Però devo aspettare questa cosa che già lo sai, che se no è l'ennesima incacchiatura. Dai, buonanotte a te e a domani. Buon tutto, ciao. Vai Antonio. Io volevo dire a Tino, sto pensando adesso al 2001 perché non me ne frega un cazzo di quello. Mi è arrivato un 345 euro di luce, se no volevo prendermi quell'aggeggio che tu mi hai detto quella volta lì per poter riscaldarmela a casa, ti ricordi? Quello che mi avevi detto tu. Insomma, se mi sarebbe arrivato quella luce lì, ti avevi chiamato immediatamente, avevo fatto quella polveria, avevo pensato una cosa del genere, perché cazzo, ce la faccio a pagarmi 345 euro di luce ogni mese. A un certo punto, cazzo, mi tocca vendermi tutto, mi tocca vendermi, capito? Quindi adesso mi pago questa cosa qui, me la faccio rateizzare, dopodiché tanto vediamo quanto mi danno questo mese qui. Secondo come piazziamo quell'aggeggio che tu mi hai detto, facciamo quel foro e così me lo riscaldiamo la casa. Sì, un attimino, non è che ci sei solo tu che paghi così tanto, io mi è arrivato a 470 euro, cosa vuoi di più voi, in due mesi però, in due mesi, vabbè, sì Antonè, quando vuoi, dai, non c'è problema. Ricordati sempre una cosa, che il gasolio sta sempre aumentando, quindi, oddio, 5 litri di gasolio fa che ti vengano circa, magari mi sbaglio, 6 euro, può essere? Se 6 euro va bene, cazzo, alla lì, mi sta anche bene, ma 345 euro di luce alla lì, dalle 8 del mattino sino alle 10 e mezzo di sera, penso che la cosa cambi lì. Aspetta, ma corretto Gavino. Allora, 5 litri 10 euro, però 5 litri ti fanno 4 giorni, quindi 4 giorni, 10 euro va bene, dai. Per l'appunto, siccome Simona con la stufa è stata dalle 8 del mattino sino alle 10 e mezzo di sera, ogni adì. Poi conta non solo quello, il fornetto per scaldare la cosa per mangiare qualche volta quando diventavo io, eccetera, eccetera. Capito? Una cosa si somma all'altra più per lavarla, cioè lavare anche i piatti naturalmente, perché non è che puoi lavare i cazzi piatti con l'acqua congelata, già lo sai anche tu, abbiamo avuto quel gelo di scorsi mesi, quindi cosa del genere, e quindi in pratica ha lievitato la questione, capito, del consumo. Adesso io lunedì mattina vado all'Eme e voglio sapere se mi hanno messo lo sconto oppure no. E in più vi porto la 104 di Simona e la 104 mia, e vediamo un pochettino se riesco a poter a farmi risarcire qualche cosa almeno, perché non è possibile a un certo punto così. Sì, va bene ragazzi, dai, devo chiudere che devo fare cosa, dai, ci sentiamo più tardi, o più tardi o domani mattina, domani pomeriggio, adesso vediamo. Quando vuoi, Antonio, non c'è problema, c'hai sempre la mia disponibilità, quando vuoi, ok? Ciao, buonanotte a tutti. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao Gabi, ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo, salutori, buon qualche, buon tutto. C'è qualcuno che mi sembra a me, ok? Mica siamo in FM, mi. Adesso mi ascolti? Sì. Siamo in FM, va bene. Ciao, buona serata. Ehi, ciao, buona serata anche a te. Avanti, chi c'è? Franco, sì, Franco di Zusso. Ciao, David Leller. Ciao, Franco. Antonello, so già. Buona sera, ben sentito. Ehi, capo, sì, ya ti ho riconosciuto. Ciao, Antonello, buonasera, ben ascoltato anche a te. Gavino, ci sei? Sempre. Antonè, ma dimmi una cosa, ma cosa c'hai? Buonasera Franco, ben sentito. Ma c'hai stufetta elettrica tu, perché? Ehi, la stufa elettrica attaccata vicino a Simona. Simona lo sai che pesa 36 kg, quindi in pratica carne non c'è, cosa ti posso dire, grasso non ce n'è. Hai capito? È magra, sta facendo adesso la cura per poter ingrassare, hai capito? Quindi a un certo punto c'è sempre freddo, anche se tu li metti 4 coperte, sempre freddo, vami, io no, io sono, mi muovo, sono bello grasso, eccetera, eccetera, ma lei è totalmente diversa. Sta facendo la cura, adesso si sta riprendendo piano, con quelle pastiglie che vendono, che c'ha tutte le vitamine e roba del genere, capito? Sì. Però Antonè, fatti anche un paio di conti, perché caspita, la stufa elettrica costa, conviene più la stufa a gas, o se non vuoi tenere a gas devi trovare qualche soluzione, però elettrico non si può tenere. Guarda, la stufa a gas fai che tu la tieni tutto il giorno accesa in seconda potenza, ti fa una bombola due settimane ti fa la bombola e paghi 50 euro, ma da mari estremi sono i rimedi, però non puoi neanche pagare 345 euro di luce ogni 2 mesi, così non va. Una stufetta a gas e ciccia. Vai Fra. L'unica soluzione è quella lì. Oppure mettere qualche altra cosa diversamente. Capito? Tanto me. No, a gas non va bene. A gas c'è una... il riscaldamento, già lo sai, c'è la caldaia agganciata e in pratica è staccata, capito? Quindi aveva il vozzo, no. Ho pagato, cioè mi è arrivata la bolletta del 28 euro solo per la cucina. Quindi immaginati, se io dovessi agganciare la caldaia di nuovo a gas, minimo mi arrivano 700 euro a pagare, se non sono 1200. Anche Giovanna se la vuole staccare, se la staccata addirittura mia nipote, perché si è staccata anche la caldaia a pellet addirittura, perché dice, costa un bel e non vende nulla, mi ha detto. Quindi bisogna prendere una soluzione giusta nell'appartamento giusto, il discorso è quello, io sono in mansarda, quindi in pratica d'inverno c'è freddo, anche perché io ho il cane, quindi il cane non posso cazzo lasciarlo dentro l'appartamento chiuso, a pisciare qualche volta deve pure uscire fuori in terrazzino, capito? Poi ci butto l'acqua e eccetera eccetera, se poi gli viene voglia di andare a fare il cocco, mica ce lo posso mettere nel cesso, no, il cane fa fuori e quindi entra l'aria. Poi vabbè, c'è anche il discorso che in pratica il portone dove abito io, già l'ho visto Gavino che ci è venuto a casa, io ho una finestra che rimane lì all'interno del palazzo, entra l'aria da lì, passa la portone e la portone è da mettere il caminetto sopra, sembra Bonifacio, sembra. Cosa suggerisci di riscaldamento per te? Il cane, a parte tutto, è meglio portarlo fuori che farlo fare in terrazzino. È meglio fuori perché il cane oggi, domani, anche se ci butti l'acqua, puzza e fuori alla fine. Conviene sempre portarlo fuori, metti un orario e lo porti a passeggiare, lo porti. 10 minuti, lui fa tutto. 10 minuti? Se sto facendo qualche lavoro, 10 minuti faccio, no, non è possibile. Simona giù, purtroppo non ci può scendere a portare il cane, se no se la porta via il cane, se la porta via. Perché pesa 36 kg, figurati tu. Quindi, non lo so, adesso vediamo, vedo un po' di studiarmi qualche cosa, no. Non lo so. Vediamo un po' cosa cazzo piazzare, perché non è possibile d'inverno così. L'estate c'è caldo, in pratica vabbè, apro tutto, va a fanculo e si sta un po' bene, ma d'inverno proprio quando incomincia a gelare, lo sai che quando entro in questa camionetta qui dove c'è il barattino, cazzo, c'è un freddo cale, c'è. Hai capito? Perché sono sotto tetto io, hai capito? Se fossi stato in un appartamento sarebbe stata una cosa diversa. Capo, è una soffetta a pellet, non ti va bene? Me la vuole regalare mia nipote, mi ha detto, dice cambiate il vetro, mi ha detto, sì, e te la piace a casa, e il problema è cazzo il pellet, che un sacchetto quanto durerà? 2 giorni? Boh, non lo so, io non ho mai usato la stufa pellet, la verità. Non so quante ore posso lasciarla accesa, eccetera, eccetera. Quanto caldo mi fa nell'appartamento. Mi toccherebbe, a parte isolare la porta, il portone, perché l'aria passa dalle scale passa sotto al portone, dal portone va al caminetto, quindi in pratica dovrei chiudere il caminetto, già l'ho visto Tino, fare un buco nel muro, mettere un tubo per poter in pratica i fumi della stufa pellet passare da un'altra parte, non è che li possono far uscire dal caminetto, solo sarebbe, a parte la stufa pellet quella è rettangolare, hai capito? Non è come il caminetto normale, capito? Sì, ho capito, ma se tu un caminetto non lo usi, puoi sfruttare il caminetto per passarci i tubi dentro e poi sopra lavorarlo, capito? Non lo so se si può fare, devo chiedere a Tino, già l'ha visto, perché gliel'ho fatto vedere, è tutto libero, non c'è niente, cioè in pratica per niente, l'aria è sotto la porta quando fa vento, e c'è maestrale, mentre dall'andone prima della porta passa sotto la porta di casa e poi direttamente va nel caminetto. Se tu ti metti seduto lì e la porta e il caminetto, l'aria che ti passa fredda a casa, è una cosa allucinante. Addirittura anche quando c'è finito il buco della chiave, da lì è una cosa allucinante. Siccome ci sono due finestre, le aprono sempre, hai capito? Non è che le chiudano, le aprono, tanto a loro non ne frega niente a quello di sotto. Ecco, sì, ma se tu ci metti una piccola stufatella, anche una piccolina, anche da 8 kg una piccolina, dipende anche da quanto è grande l'appartamento, i tubi li puoi passare anche se non la usi più il cammino, se non la usi più, ci puoi passare i tubi lì dentro, ci puoi passare, sì o su, a tetto, capito? È facilissimo, allora è ancora più facile così, di stare lì a bucare, a fare, è un casino. Antone? E io? Adesso non ti prometto niente, vedo se questo amico mio, c'è qualche amico che ha qualche... Tu una stufa a legna, te la metteresti dentro il camino? Guarda, il problema della stufa a legna è più che altro per Simona, perché ha problemi di polmoni, hai capito? Perché se io dove c'ho il caminetto, l'ho acceso due mesi fa, mi ha detto tutti i giorni, mi dice guarda che il caminetto tira, dice prendi i legnetti, quelli di Aerospin, e li metti in un fianco, mi ha detto. Così ho fatto, l'ho acceso, la verità, acceso, l'odore del fumo è rimasto sempre due giorni, capito? Il discorso è quello lì, Simone non riusciva a respirare, c'ha problemi di polmoni, lo sai che lei ha avuto quei problemi ai polmoni, quindi non lo so fino a che punto posso fare una cosa del genere. Non lo so neanche se posso filare della stufa pellet a un certo punto. Vabbè, penso alla stufa pellet, odore di legna non è lì all'interno dell'appartamento, però la stufa a legna penso di sì, il discorso è quello, è tutto da bisogna controllare, se no ci avrei pensato anch'io al limite, una stufa a legna, prendo quei legni che vende Aerospin in cassetta, già li hai visti, no? Costano una cazzata, infatti costano 2, 3 euro, 5 euro, adesso non mi ricordo. C'è un infilo dentro e in pratica mi scando l'ambiente per 3-4 ore, perché ho fatto col caminetto, la verità io sono stato tutta la notte bene, con caldo che c'è da crepare nel salone, stava bene anche in cucina, in camera da letto, eccetera, eccetera. Ho fatto la prova, la verità. Però con quei legni dell'Eurospin non ne vale la pena, perché se tu metti quei legni dell'Eurospin dentro il caminetto, secondo quanto tira quel caminetto, ti durano un quarto d'ora, capito? Tu di lì, secondo me, la stufa a legna, se è buona, che non è una stufa a legna, io ne ho regalato, guarda, io quando sono venuto a vivere qua, che mi sono trasferito, avevo il caminetto nell'altra casa, c'avevo il caminetto e stavo bene, usavamo il caminetto e tirava bene, mi tagliavo la legna, io andavo e dai, la legna ce l'avevo sempre. E poi quando sono venuto qua, anche qua c'era solo il caminetto, infatti ho detto no, mi prendo la stufa a legna. Mi ho comprato la stufa a legna, avevo preso una nordica piccolina, era piccola, non era grande, e scaldava tutta la casa, però poi Antonio, io non, col lavoro non avevo tempo di prendere, stare a pezzarmi legna, a trasportarmi legna e fare, e quindi ho comprato la stufa a pellet. E la stufa a legna, quella nordica, io l'ho regalata, capito? L'ho regalata stesso, ma non faceva, faceva un... è perché a volte magari la stufa a legna devi sempre tenerla accesa, sempre per non fare fumo, altrimenti un po' di ma non fa fumo, fa puzza, che poi non è fa puzza, non è fa di odore, non è fa di fumo, Antonio, la stufa a legna non è fa di fumo. Però ho voluto la comunità della stufa a pellet, ho comprato la stufa a pellet, io quella l'ho regalata, e devi cercare le pianelle, capito? Ti cerchi le pianelle, invece comprati i legnetti dall'Eurospin che costano 6-7 euro, te ne prendi due pacchi, sono 7 euro e ti fanno mezza giornata, tanto vale che ti metti la stufa a pellet e ti compri un sacco di pellet, anche se la stufa la tieni accesa, cosa ne... Io per esempio questa qua, quella, la mia stufa a pellet, mi fa un sacco di pellet ogni 4 giorni consumo, e la accendo la mattina. Lei si accende da sola, l'ho importata, si accende dalle 6 del mattino alle 9 e poi la sera dalle 6 alle 11, adesso è già spenta, ma si sta bene perché l'ambiente te lo riscalda, ma te lo riscalda proprio bene, a me me lo riscalda bene. I redditi dell'Eurospin non ti conviene, Antone, sono soldi buttati, ma quelli sono soldi buttati, come che tu prendi e bruci 3 euro, non hanno resa, quella legna non ha resa, ti devi cercare una, adesso vedo se c'è qualche amico che ha qualche stufa a pelle, qualche stufa a legna, se te la vuoi piazzare, mi fai sapere e vediamo un pochino se la regala, se trovo qualche stufa a legna regalo, tanto c'è tutta l'estate adesso. Però ti conviene il pianelle, nella stufa a legna metti le pedane, intanto tu c'hai il garage, te le metti dentro, pian piano te le appezzi tutte quante col seghetto ovunque su vi vai, e ti porti le pianelle su dentro una cassetta, dentro un secchio, ti porti la legna tagliata così e la metti nella stufa senza comprare legna, secondo me è l'unico modo, altrimenti la stufa a pellet incanalizzi i tubi dentro il caminetto e la stufa a pellet non te ne fa odore, non te ne fa, assolutamente, consumo non ne ha perché consuma 100 watt, neanche, quando lei è in modulo, quando lei va in modula che ha una temperatura costante assorbe 120 watt, almeno questa qua, e questa che ho io è una 9 kW mi sembra. E un sacco di pellet mi fa 4 giorni. Quanto io sono sicuro, guarda, io mi faccio i conti, a me un sacco di pellet, per esempio se ho messo il sacco, guarda, stamattina, io metto un altro sacco di pellet fra 4 giorni. Io mercoledì metto il sacco del pellet, mercoledì mattina. Quindi, e sono 6 euro, mi segui? Sono 6 euro, quindi ti conviene, la tieni, poi scalda, ti scalda tutto. Oh, Antone, purtroppo è così. Signori, io ne approfitto, vi ho il mic, che oggi sono anche un po' da presto in radio, quindi sono un po' stanco. Quindi chiudo le trasmissioni, caro Franco, e ce la riascoltiamo domani, se Dio vuole, e i carabinieri lo stesso, ok? Vi rilancio il mic, vi saluto, buonanotte a voi, al vostro correa familiare, caro Antonello e caro Franco, e a tutti gli amici all'ascolto. Chiudo le trasmissioni, ciao, buonanotte. Aspetta, Gabi, com'è questa la radio, prima d'andata? Aspetta un attimino, sto al passaggio. Ecco, vedi a vedere questa com'è. Sto usando l'MV4 con la precedente Lincoln. È appena compressa, fra. Appena compressa. È così com'è? Ha migliorato? Ancora di più. Ancora più compressa? Sì. Come mai? Ho abbassato coso. Ce l'ho a 5 la chiglia della, del microfono. È un po' compressa, appena compressa. Avevi toccato l'LC tu di lì, vero? Sì, l'avevo aumentato, aspetta a vedere, voglio provare un'altra cosa. Così per me adesso. Compressa e bassa. Compressa e bassa. Va bene, grazie. E figurati. Va bene, dai, di nuovo, buonanotte, ciao Franco e ciao Antonello. Ehi, ciao Gabriele, buonanotte, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo. Buonanotte a te Correa, ciao, avanti Antonello. Antonello, ci sei? Andate a sentire. Oh, va bene, dai, ciao fra. Ehi, ciao, buonanotte. No, magari se non va, se non vede niente, comunque. Ciao, è entrato, gatto, Edo, in bagno. Ma tu devi avvisare quando vai in bagno, hai capito? Così è maleducazione, gli altri se ne stanno andando, tu ne fai per i fatti tui. Ma se uno si sta facendo la cosa addosso, secondo te, cazzo, stavano parlando degli altri, cosa faccio? Come il circolo, aspetto fuori e mi piscio dentro. Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ciao Tino, buono. Ciao Tino, buonanotte, ci vediamo. Ti volevo dire, Gavi, la stufa pellet me la vuole regalare mia nipote. Adesso valuto un pochettino, secondo me, me la piace una di quelle stufa pellet verticali. Alta mi sembra che un metro e dieci, forse un metro, una cosa, non mi ricordo, l'ho detta. Adesso vado per un pochettino, siccome ce la vuole buttare, secondo me la prendo a casa nel camionetto e va a far cura, adesso vedremo, non lo so, valuterò un po'. Gavino non c'è che se ne è andato, era per quello che stavamo chiamando. Va bene, dai. Se te la regalano, che ci vuole solo il vetro, ti conviene prenderla, perché il vetro mica costa tanto. Lo so, ma il bello è che, capito, ci vogliono passare i tubi per lo scarico esterno, non so se magari col pellet Cato Simona ha problemi per la respirazione, hai capito, per i polmoni, e quello è il problema, hai capito? Simona c'ha problemi ai polmoni, con quello che ha avuto, non posso usare la stufa pellet, non posso usare i profumi, non posso usare niente, capito? E quello che devo valutare, anche non devo avere fumi per niente, nulla, solo aria calda e basta, senza odore di legno e legna e cose del genere, quello è il problema, mi capito? Guarda Antonio, che la stufa pellet non esce fumo per niente, nulla, non fa nulla, non esce dalla stufa pellet. Tu odori non li prendi, l'odore lo prendi solo quando tu compri una stufa nuova e la accendi per la prima volta, poi una volta accesa un po' di volte non ne fa più. Ma un giorno puoi aprire le finestre e tutto quanto, se è nuova, poi se è già usata, fumo non le fa, e neanche odore fa. No, è già usata, no. Io già c'è un anno in quell'appartamento, è un appartamento di Giovanna, già lo sai, quindi, a Ussi, sarà al minimo 6 anni. E ti conviene metterla, perché quella non ti fa nessun problema, non ti fa né fumi e né odori. Con ciò hai solo di mettergli il pellet hai di mettergli e basta. Tanto un sacco, secondo se tu rispetti, diciamo, l'accendi alle 5 di sera per dire 3-4 ore, un 3-4 ore ti fa anche mezzo sacco. Sì, ma il problema è che in pratica il caminetto nel salone, Simona in camera da letto, perché si guarda la televisione, se la guarda nel salone, quindi io non so adesso se questa stufapelle ti riesce a riscaldare, cazzo, 75 metri quadri di appartamento, capito il discorso? Poi c'è questa storia, cazzo, lei come si chiama, che mi entra l'aria dalle scale, cazzo, del condominio, sotto la porta, e poi verso il caminetto. Hai capito cos'è il problema? Sarebbe inutile che mi piglio la stufa a pezzi. Io ho acceso il caminetto, la verità, l'altra volta, come mi ha detto Tino, fumo ne ha fatto appena appena, non molto la verità, con quella linea lì, però Simona ha sentito lo stesso, il discorso è quello, perché non è abituata. Se fosse stata una tipa che fumava come prima, tanto quanto, hai capito? Lei dice, purtroppo c'è i polmoni ormai, che ha avuto problemi, hai capito, dalle sigarette, il discorso è quello lì. E allora lì conviene mettersi un condizionatore e usare quello, e con quello non ha problemi. Ne mette uno in una camera dove sta più lei e si riscalda così. Al limite uno di quelli specie di condizionatori, come dire, allora si chiamano quelli ibridi. Si chiamano ibridi perché non c'è più l'unità esterna, scaldalo dentro, l'accendi 10 minuti prima di entrare nella camera, ti manda l'aria calda e poi ti rimane bello tranquillo dentro al letto, una cosa del genere. Però prima consumavano bene, adesso consumano di meno perché mi sembra che l'aria la mandano non so come, con... Vabbè, è cambiato il sistema interno, capito? Per il riscaldamento non è più con una cosa incandescente, ma tipo alogena, capito? Quindi in pratica scalda prima e ti manda l'aria calda, non è più con la resistenza, capito? È come si fa col sole in pratica, mi? Cioè, quelle stufe, hai visto quella alogena che illuminano, e in pratica non senti il calore, senti solamente il calore di quello che ti illumina quando ti metti davanti e basta. Come ti dica, per forza contro il riscaldamento ci vuole, però l'unico è quello lì, anche se vabbè, quindi quei portatili tu stai dicendo così lì, ma è meglio mettere un condizionatore con la macchina fuori e non sbagli, intanto mi alla fine se compri la stufa pellet, secondo a quanto del pellet ci guadagni anche in corrente, ci guadagni, e conviene sempre quella lì, conviene. Però visto che lei ha questi problemi, tutti questi problemi, più che un condizionatore non potresti mettere. Già consuma poco il condizionatore d'aria, cazzo. Vabbè, l'unica cosa di buono che c'è il condizionatore d'aria, che aspira l'aria fuori, ce la manda dentro. E lì ci siamo. Invece in quel caso lì, quando ti metti un condizionatore ibridi, ti brucia l'ossigeno interno e rischi cazzo di rimanerci secco di notte. Il discorso è quello lì. Cioè di giorno anche, non solo di notte, come avere una stufa a gas non c'è più l'ossigeno, hai capito? Quello è il problema. Lo fanno anche le stufe con l'alogene, la stessa cosa, te la accorgi subito perché incomincia ad avere mal di testa e roba del genere, da lì te la accorgi subito. Se uno non ne capisce nulla, te lo trovi secco e pesto, te lo trovi a casa, dentro al letto. Sì, il riscaldamento ci vuole, e come d'estate ci vuole anche se uno soffre di caldo, ha problemi, e ci vuole anche il condizionatore, un po' di aria fresca. Se è possibile ci vuole, il discorso è quello lì, perché se parti a riscaldarti così e ti brucia l'ossigeno dentro la casa, ti trovi come la stufa a gas, secco e sì, la zuppa a gas ti scalda, perché ti scalda, risparmi, però ci rimani secco, hai capito? Potrebbe anche succedere magari che c'hai il tubo del gas che c'ha problemi, che c'è un piccolo foro, vai di notte, la casa è satura di gas, quando rientri, tac, accende la sigaretta, pa, e ci va a tappare. E purtroppo è quello, c'è il pro e contro su queste cose qua. Hai capito? L'unica cosa c'era voluto una specie di ventola che ti aspira l'ossigeno da fuori, te lo manda dentro, e poi tramite un qualcosa che riesci a prendere da fuori te la manda dentro a casa, allora sì, allora va bene, capito, sei tranquillo e non crepi dentro casa, la verità, perché l'ossigeno ce l'hai, anche se aria riscaldata, vabbè, sempre aria e ossigeno è certo, va bene, va, ce l'abbiamo fatto. 11:30 e 35. Beh, Antonio, fatto piacere di fare quattro chiacchiere. Ce le riascoltiamo, dai, me ne vado giù a letto. Beh, va. Sono un po' stanchino. Ok, al limite ci sentiamo domani. Oh, stasera comunque c'è la propagazione, ma hai sentita verso le 6 di sera? Tutta la Sicilia c'era. 9:10, radio 5 su 45. Poi verso le 2:30 di sera ho parlato con la Polonia, 9:10, radio 5, sono arrivato, un ragazzino mi ha detto, dice, Polonia, mi ha detto. Capo. No, stasera non ho acceso niente perché c'è bevù, aspetti, e se ne sono andato azzurra a Londra, se ne sono andato 11:10, una cosa del genere. E niente, quando se ne sono andate poi sono salito qua a vedere se c'era qualcuno, infatti già c'era Tino Gravino e tu. Va bene, dai, al limite a domani. Ciao Antone, alle prossimine. Ehi, a te 80, ciao, ci sentiamo, fatemi bene. Alle prossimine, ciao, buonanotte anche a te. Ehi, ciao Antone. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 140, sì. Prova in AM invece, potrebbe essere in FM. Thank you. bene adesso. A voi chiedo che in pratica io ho avuto il... In pratica se 80 avevo avuto 23, forse no, 23 anni no, ma più di 30 sì, a un certo punto. E poi avevo con quello lì, insieme a quella parecchia lì, pilotavo il BV2001, quella valvola, se ti ricordi bene. Ho capito tutto, stai parlando di Carlo Ciacca di Chiaramonti. Mi sembra, non so se è ancora vivo la verità, ma penso che sia già morto, aveva già un sacco di anni quando l'avevo visto io, e ti parlo degli anni 2000 e qualche cosa, quindi sarà, se non è vivo, c'era almeno 85 anni, come minimo, Sì, sì, già me lo ricordo infatti, sì, me lo ricordo. L'aveva fatto tutti e due gli apparecchi Kenwood, Carlo Ciacca l'aveva fatto di Chiaromonti. Questo stato va Sirio, Mercury, 5 ottavi, perché con la Mantova Turbo ho avuto un bello scossone, ho avuto, se, 4 mesi fa nemmeno. Mi è arrivato il fulmine in pieno e mi ha crepato la bobina, due televisori, poi il termico di casa ha preso fuoco, hai capito? Quindi vedi tu, più di 300 euro di danno mi ha fatto. E Giovanna Coca-Cola, no, quella che stai dicendo tu non è Daniela, quella che stai dicendo tu è un'amica sua che modulava da Carbonazzi e arrivava tranquillamente al Ghero. Avevo fatto un diporo io, gli avevo regalato il baracchino e il microfono, l'alimentatore e tutto l'avevo regalato. E si chiamava, cazzo, non mi ricordo il nome adesso. Allora è fidanzata, neanche fidanzata la verità, ma comunque sia una bella ragazza, aveva una bella tetta, eccetera, eccetera, una bella ragazza. Non scappava la mia, c'aveva un altro nome, c'aveva. Mi viene in mente il nome adesso, era un'amica di mia sorella, era. Comunque Giovanna, il baracchino c'era tuttora, c'era il 2009, io ho regalato l'antenna alla Mercury mezz'onda, io ho la Mercury 5 ottavi perché la Mantova l'ho staccata e l'ho regalata. Perché non volevo cogliere l'intera, cazzo, con questo fulmine, cazzo, cioè, non posso spendere 130 euro un'altra volta per pigliarmi un'altra scossa. L'ho preso e ho staccato quella, mai più, gli ho detto. In 30 anni non mi è mai successo niente, ma la prima volta si trombano, come si dice, l'asino si trombano una volta sola, la seconda volta non lo trombi più. E quindi ho preso e ho cambiato antenna. Allora, c'ho la Mercury io e la Mercury mia sorella, solo che la Mercury mia sorella vorrei ancora piazzata. C'ho il posto già pronto e tutto quanto, devo solamente scendere il cavo in casa sua, lei c'ha l'apparecchio, c'ha l'alimentatore, c'ha il microfono che ho regalato io, quindi è un momento opportuno. Adesso quando faranno i lavori nella palazzina, che devo fare la ristrutturazione, e gli passerò il capo direttamente dentro casa sua, così me lo modulo anche lei. Allora, amica si chiamava Alba, che mi sono ricordato adesso, il nome di battesimo si chiama Immacolata, in pratica. E modulavano tutti e due assieme. No, Daniela no, assolutamente no. Non ci ha mai modulato Daniela. Infatti con il nome attivo non è Daniela, Alba oppure Roberta, che modulava da Verissedo, adesso non mi ricordo il nome attivo, quando abitavamo in via Verissedo, ma se io abitavo in via Carbonazzi è impossibile, lei non ce l'ha più, Roberta, in quel periodo lì. quindi è, più che alba non può essere, perché gli ho fatto un depolo io e arrivava sino al capocaccia, figurati tu. Se non mi dici il nome, non me lo ricordo, la verità, non me lo ricordo. Una ragazza di stasera volava tra Mariglio. La verità non lo ricordo, Forse ho capito che sei scelto tu. C'era una famiglia che abitava, erano due sorelle che modulavano. In pratica lì arrivavi prima di Alghero e c'avevano una specie di fattoria, una cosa del genere. Forse è quello che stai dicendo tu. Stai dicendo tu? Ho capito. Comunque io mi ricordo che nella strada per andare a Fertilia c'erano due ragazze che parlavano della fattoria, una cosa del genere, insomma, non mi ricordo bene. Tanti anni fa. E tutti quelli di Alghero andavano lì a conoscerle, cose del genere. Tu immaginati che io ero sceso con Piero Andrea, una volta avevo conosciuto la figlia di Cristal, di Alghero, figurati tu, cazzo. E io ho durato con lei, figurati, cazzo, tutti i giorni, mattina, sera, notte, eccetera, eccetera, sembravo fidanzati, finché non l'ho conosciuta il giorno che sono sceso di Alghero. La verità che sono andato lì a Montedoglia, ho conosciuto a Cristal, poi da Cristal mi ha detto, dice, aspetta, ti porto a casa mia e ti faccio conoscere, dice, mia figlia, mi ha detto. E avevo conosciuto la figlia. E da lì ci eravamo conosciuti, avevamo fatto amicizia e basta, però non più di altro, capito? Esatto, sì, che è lungo, durava la Montedoglia, già te lo ricordi, cazzo, che ogni volta mi sovramodulava a me, sovramodulava a tutti, parlava tranquillamente con Cagliari quando parlava con Sassari, figurati tu, da lì sopra con una Grand Prix, perché mi ricordo che sono salito su con la in macchina con, adesso non mi ricordo con chi ero, forse ero con Andrea Manicomio 2, adesso non mi ricordo. Con quello di Ussi, sono andato a trovarlo lì, oppure con Pier Andrea, adesso non mi ricordo, con Pier Andrea Papa Alfa, eccetera, eccetera. Non mi dire che era parecchio, è il Zodiac, aspetta, 50-36, no? Il Zodiac 50-36, che c'ha 4 lettere, MFM. Sì, 50-34, abbiamo capito. L'ho conosciuto, l'ho avuto anch'io. Quindi non preoccuparti. E poi c'era il 50-36. Uno andava in M, l'altro invece faceva MFM. In Italia ci sono stati parecchi, lo sai. Aspetta un secondo, lo sto arrivando subito. Allora, nella rete che c'è, mi senti? Sì. Allora, c'è il 548SX, che è 40 canali, poi c'era l'FM500S e ne aveva 34, quindi non può essere. Quello stai dicendo tu deve essere per forza lo Zodiac, che vendeva coso, giù a Pedranietta, Melchioni, che Zodiac M5036, questo fa MFM, invece il 5034 fa solamente AM e c'è LED, invece quello della rete che c'è lo Smith. Ah, adesso ho capito, quello fine fine che c'ha due slider. Sì, ho capito lo slider. C'aveva due slider, adesso me lo ricordo, l'ho avuto io quello. L'avevo pensato nella moto, lo sai, uno di quelli, l'avevo pensato nello scooter, con l'antenna in gomma, di quelle antenne in gomma per CB. Funzionava benissimo, funzionava nello scooter. Escono bene con gli apparecchi, guarda, la verità, prendo lo splatter, la verità, perché tra quello, l'FM500S e il 548 SX, non c'è nessuna scelta, cara. Se c'è un vicino di casa non parli più. L'unica cosa era il 2009, io l'ho usato quegli apparecchi lì. L'unica cosa che avevo fatto era insieme al dei, adesso non mi ricordo, 4-5 cibi di alghero, avevo ordinato 5-6 dei 2009, la prima serie sono stati ordinati e facevano schifo, la seconda serie invece l'ho presa io, ho preso la seconda serie del 2009 e ce l'ho tuttora in vita, grazie a Dio, ho già 20 anni, figurati tu. Sono gli 11 del 2009, io quando parlavo a Claudio Spalfiero, che c'avevo vicino, grazie a Dio non mi dava nessun fastidio, ma la prima serie era un cesso, era. Sì, sì, già lo so, io su 14 con lineare, voi eravate su 15, se ti ricordi bene si lamentavano parecchie volte, venivano sul canale 14 da me. Adesso cazzo mi stai spatterando, io cosa dicevo? Ah, gli spatter sono come i dolori, chi ci lascia li tiene, dicevo sempre. Poi sentivo la clavio, se senti qualcosa pompando, quindi eravamo tutti e due pompando, io con 600, lui con 1000, quindi cazzo, gli facevamo un groghi da 14 a 15, figurati tu. Io parlo su canale 7 in PMR, infatti, sempre. 442, cioè la facolo, 446081.25, c'è anche l'antenna esterna, certo che ce l'ho io, ce l'ho sopra al letto, ce l'ho, posso anche agganciarlo adesso, aspetta un attimino che l'aggancio, così vediamo, eh?